Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Care amiche e cari amici, vi porgono un saluto affettuoso Gesi e Antonio. Eccoci qua anche stasera per cercare di far passare ai nostri ascoltatori un'ora molto piacevole, ma penso proprio di sì, perché poi lo diciamo. Bene, nel frattempo diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione, con un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Naturalmente. E adesso presentiamo anche il nostro ospite, che è stato con noi circa un mese fa e ci ha parlato della postioma. Postioma, sì, esatto. E stasera continuerà a parlarci, certo, ancora della postioma. Allora salutiamo il professor Mario De Conto di Postioma di Paese. Buonasera, professore. Grazie. Buonasera. Ricordiamo semplicemente che il professore è preside del liceo classico e scientifico presso il Collegio Pio X, eccetera. Quindi è già abbiamo una grande personalità. Per carità. Ecco, benissimo. A lei, professore. Niente, allora si tratterebbe di continuare, avevo incuriosito, ecco, sì, molto, gli amici molto qui presenti, il discorso fatto circa un mese fa, all'interno della storia, ecco, di Postioma, del paese in cui tra l'altro io abito e che amo, come si sarà capito l'altra volta. Certo. C'è una figura particolare che è di Giuseppe Monico, è il parroco, un parroco che prende sede nel 1800 proprio, e che tra l'altro sarà quello che commissionerà gli affreschi, il ciclo di affreschi nella chiesa settecentesca, che tuttora, ecco, si può ammirare, ecco, a Postioma, e qui ne approfitto per invitarvi. Pomeriggio di ogni quarta domenica del mese è aperta con visite. Però io bisogna che interrompa un attimo, perché dovevamo ascoltare la prima canzone la prima in programma. Canzone, bene, ecco, abbiamo lanciato l'argomento, adesso andiamo pure con la prima canzone. La canzone è Non si compra la fortuna, cantata da Achille Togliani. Mi viene vicino col pappagallino e la gabbia sul cuore, ma zingarella non ho fortuna, non sai che pena talvolta l'amore. Per pochi soldi tu vendi alla gente le dolci illusioni che ingannano il cuore, e c'è chi crede che per le strade comprarsi possa la felicità. Perché mi vuoi tentare? Perché mi vuoi ingannare? Non si compra la fortuna per le vie della città, come l'onda al chiar di luna, la fortuna viene e poi va. Getta al vento il suo pianeta, zingarella non badar, c'è una lacrima segreta sul mio viso discenderà. Sul foglietto c'era scritto così che il mio cuore felice sarà, Chi l'ha detto, chi l'ha scritto, mentì, il futuro nessuno lo sa, non si compra la fortuna nelle vie della città, come l'onda al chiaro di luna, la fortuna viene poi va, non si compra la fortuna, non si compra la felicità. Per le vie della città, come l'onda al chiar di luna, la fortuna viene poi va, non si compra la fortuna, non si compra la felicità. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale lasciamo la parola per questa affascinante lettura. Ecco, allora Giuseppe Monico scrive una memoria su richiesta, ecco, del governo, così della regione, siamo, non dimentichiamo, ecco, nel Regno Lombardo-Veneto, e siamo nel 1812, ecco, e c'è, ecco, il Monico che viene richiesto di fare una così, illustrazione degli usi, costumi, superstizioni. Difatti scrive questo saggio che dice: sopra le costumanze, pregiudizi, superstizioni e pratiche del popolo di Postioma e delle ville limitrofe. Ecco, è interessante perché nell'esordio lui dice: beh, sembra che l'illuminismo abbia sconfitto tutto. No, lui dice, l'illuminismo non ha sconfitto tutto, ecco. Ed è bella l'espressione che usa: fu detto da un bello spirito che il voler togliere tutti i pregiudizi sarebbe il massimo dei pregiudizi. Ecco, no? Sì. E questo la dice lui. Effettivamente. Sì. Ecco, così, in questo nostro così incontro io mi limiterò fondamentalmente a leggere degli estratti, perché sono scritti bene, ecco, e eventualmente con qualche commentino. Certo. Beh, lui passa in rassegna intanto le vicende legate alla vita umana. Allora, ecco, lui dice che il primo elemento è quello della nascita, no? Della vita dell'uomo. E allora dice: la madre del bambino è visitata entro pochi giorni, prima del parto. Dalla moglie del padrino e dalle altre sue affini, che le fanno un regaluccio di poche ova, di ciambelle e di pane. Però poi è interessante perché verso la fine del puerperio e anche prima, in un dì assegnato, si radunano queste amiche in casa dei genitori, che invitano pure anche altre donne, parenti e amiche, dalle quali pure portasi ad arbitrio un presente di ova, pane e galline. Ecco, è interessante perché dice: le galline, ecco, sintetizzo un po', si preferiscono le galline nere. E allora, ecco, il Monico si interroga perché. Non perché, secondo la credenza popolare, siano le più facili a celarsi dalla vista degli uccelli rapaci, poiane o altro, sì, no? Ma per l'opinione che diano un alimento più nutritivo. Perché sono nere. Ecco, esatto, perché sono nere. Non si sa, ecco, perché, però questo è... La credenza. Poi, ecco, questo è interessante perché dopo il parto la donna, ecco, per più di 30 giorni non devono uscire di casa e molte meno entrare in casa altrui, quindi guai anche entrare se prima non siano state condotte alla chiesa. Lo ricordo io. È bello questo. Che questo sì, è durato sì. Fino a che sì, sì. Esatto, io ho cercato di togliere questo pregiudizio, per dire siamo nel 1812, per capire anche lo spessore intellettuale di questo parroco. Esatto. Dice: non esiste. Io ho cercato di togliere questo facendole entrare in casa mia anche prima di passare in chiesa. Per dire che non portano sventura, sì, o appunto, altro. Cioè, se all'uscire della chiesa la prima persona che si fa loro incontro è un uomo, pendono buon augurio. e credono di poter un'altra volta partorire un infante di sesso mascolino, cioè maschio. Sì, sì. Viceversa se incontrano una donna. Quindi avere il maschio era un guadagno. Esattamente. Perché? Perché le figlie portavano fuori la dote, sì, e quindi era i maschi erano braccia per l'agricoltura. Esatto. Ma è interessante la cosa, perché proprio dà questa indicazione che i pregiudizi o comunque le credenze eccetera radicate sono difficilissime da estirpare. Da estirpare. Sì, beh, adesso anche quello della donna che ha partorito non c'è più questo pregiudizio. Sì, sì. Esatto. Però è interessante che questo prete del 1800 dice no, le ho invitate a casa mia per dimostrare, ecco, che cosa, poi offriva la cioccolata. Era di mentalità molto aperta. Certo. Eccetera, eccetera. Un'altra cosa riguardava i matrimoni dei vedovi. Ecco. Qui dice, vedendo che tal pratica spesso non era esente da infausti eccessi, perché? Perché quando andavano a sposarsi facevano uno strascinare di catene, fracasso di vari ordigni di legno, trambusto di vasi di rame. Madonna. Insomma, era un prendere in giro, ecco, no, questo. E allora questo prete cosa fa? Vedendo che questa era eccessiva, ecco, mi diedi tutta la premura onde abolirla, procurando che il matrimonio seguisse, cioè venisse fatto segretamente e si pubblicasse solo dopo qualche giorno. Ecco, per evitare, proprio per evitare, che certo, fossero messi un po' all'udibrio, certo, ecco, della gente. E anche questo la dice lunga, ah, sì, ecco, sulla, come fosse avanti, come, no? E dall'altro lato come fossero così radicate queste cose. Alla, ecco. Infatti. Per quanto riguarda poi le feste dell'anno. Ecco, allora lui parte dalle feste natalizie. Ecco, sui funerali non c'era. Ecco, lui dice che a un certo punto c'era un banchetto che si faceva al rientro dal funerale. Questo richiama un po' i banchetti che anche gli antichi facevano, sì, in occasione. Però non vedeva nulla di particolare. In Albania li fanno ancora, per esempio, perché ecco, io ho la donna albanese che... Certo. Ecco, poi ecco il Natale. Beh, dice, nella vigilia del Natale i focolari contadineschi non provveduti a bello studio erano provveduti a bello studio di un grosso tronco di legno, cioè è il ceppo di Natale. Il ceppo di Natale. Che veniva acceso la vigilia e doveva essere costantemente alimentato fino all'Epifania. Ecco, erano le 12 notti. No? Le notti più intrigante anche, esatto, no? Sì, sì. Dell'anno, più buie naturalmente, esatto, anche no? Ma poi anche c'è il 12, gli apostoli, esatto, c'è anche il discorso della dodicesima biblico. Notte, esatto, che è quella dell'Epifania, poi che è quella più legata, no? a tanti vaticini o cose del genere, e fanno che appunto lentamente arda tutti i giorni intermedi sino all'Epifania, in cui rimane, ecco, deve essere consumato. È interessante che, come dice più tardi, per i pan e vin, il fuoco del pan e vin viene acceso prendendolo da questo ceppo. Ecco, stavo proprio pensando a questa cosa qua io. E si conclude col pan e vin, in sostanza. Si conclude col pan e vin, ecco. Rappresenta, se vogliamo, il centro proprio della famiglia, no? Perché c'era il larin, ecco, con questo ceppo, esatto. Quindi il senso della... così della comunità, in questo caso familiare, raccolta attorno al fuoco. Sì, sì, esatto, ecco. Ma cose ancestrali, nel senso che di come anche i romani, no? La stanza dove c'era il focolare, era il centro della casa, della casa, ecco, esatto, così, esatto. Via. Che bello che è il focolare, che d'allegria. Certo. Poi ecco i famosi pan e vin, che ardono sparsi per la campagna. Nella sera, ecco, era nella sera che precede l'Epifania, la sera dell'Epifania e la sera successiva all'Epifania. Quindi era per tre giorni. Ah, ripetuto, tre giorni. Richiamava, non solo una volta, esatto, come questa. Ma richiamava il tre, quindi numero, sì, sempre una simbologia. Adesso lo fanno solo la sera prima dell'Epifania. Sì. Esatto, sì. E nemmeno dappertutto, mi pare, anche nelle nostre zone. Adesso sta riprendendo un pochino. Da noi a Mantova non l'ho mai visto. Sì. E lì, ecco, dice che già allora, siamo 1812, sì, si traevano gli auspici, ecco, per l'anno, ecco, per la raccolta dell'anno, sì, successivo. E se le faville andavano verso mattina, era presagio di un anno magro, se andavano verso ponente, esatto, era presagio di un anno fertile. Un attimo, ci fermiamo per la seconda canzone, professore. Allora, Ci ascoltiamo Fiorella Mannoia in Quello che le donne non dicono. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il professor Mario De Conto. Ecco a lei, professore. Ecco, allora mi sono chiesto come mai convinzione che se le faville fossero andate verso mattina, ecco, era presagio di un anno magro. Pensando, ecco, io ho visto anche così, ho letto dei saggi di studiosi, dice in fondo per le nostre terre tutte le sventure con le invasioni barbariche e quant'altro venivano da quella parte, quindi ecco. Più che un discorso meteorologico, sì, cosa del genere, era un po' un retaggio storico, ecco, di questo tipo invasioni. Oltre, non dimentichiamo, ecco, che i venti più forti e così avvengono da est, Buran, quindi c'è, eccetera, anche sì, questo tipo, certo, diciamo, legato alle condizioni atmosferiche, ma anche scarse, legato al discorso, esatto, della storia, certo. Ecco, e continua dicendo: mentre alcuni in queste osservazioni sono occupati, vanno altri a legare con funi gli alberi da frutto, come peschi, ciliegi, noci, li percuotono con colpi di bastoni dicendo queste parole: carica e mantieni. Quindi li legano in modo che tengano dentro tutta questa energia e poi ecco producano frutti. Infatti me lo ricordo in dialetto: carga e mantien par sto anno che viene. Ecco, ecco, questa, questa è la, sì, questa e è pensiamo la ecco che sono così ecco di antica di origine, queste. Come l'altro ecco che dice è quello del batter marzo. Ecco, quando arrivava, ecco, viene anche qui ricordato che i giovani percorrevano i campi battendoli, e questa volta ecco, era per dire che si risvegliasse, ecco, la natura è interessante. Un tentativo di esatto, dare di un auspicio di esatto. risveglio. È stato allegro anche per sentire tutte queste cose. Sì, era un'occasione di festa, perché appunto. Dice poi dopo tutte queste cose qua, si andava all'osteria, ivi si mangia, si beve a crepapelle e si termina d'ordinario con una solenne ubriacamento. Ecco, no, quindi era un po' una questa volta era l'unico, come una dire, forma sbardo, di diversione. Di forma di diversione. Sì. Poi ecco, è interessante per Pasqua, una ricetta, ecco, sorbiscansi a Pasqua dagli uomini l'ova nate nel Venerdì Santo. Quindi gli uomini dovevano mangiare a Pasqua le uova prodotti il Venerdì Santo, perché ecco, hanno un potere contro la pleurite e altri mali, secondo la tradizione. Le donne invece dovevano sorbano quelle nate nel Sabato Santo. E avranno un rimedio contro l'ostinazione dell'isterismo. Ecco, e questa era l'altra così una medicina, così, medicina ecco. Dovevano bere queste uova che piacciono esatto, che non piacciono. Il giorno di Pasqua, ma dovevano ecco con questa distinzione. Sì. Mentre ecco un'altra notte particolare magica è la notte di San Giovanni, no? Ecco. Ah, che bello. Un altro ancora: chi si rotola ignudo nell'erba la notte della vigilia di San Giovatta, ecco perché qui lo chiama Giovanni Battista, e così bagnasi della fresca rugiada che v'è caduta, avrà difesa contro la rogna, cioè o contro tutte le malattie, diciamo, legate alla pelle. Quindi la rugiada era quasi come un'acqua, no? Ma benedetta. Io mi bagnavo sempre con la rugiada di San Giovanni. Mi... sì. Quindi anche questo... qui ci sono, diciamo, degli agganci ad altre regioni. Sì, era proprio questa, ecco, cosa. Poi ecco il Sabato Santo c'era la solenne benedizione del fuoco e le donne andavano a prendere il fuoco sacro in chiesa e estinguevano quello che avevano in casa. Quindi ecco, c'era proprio questa anche passaggio fisicamente, esatto, che forse noi ecco non abbiamo, ma questo passaggio dal vecchio al nuovo. Ogni gesto aveva una sua uno specifico significato. Ma non so se qualcuno di voi si ricorda che una volta suonavano le campane il Sabato Santo alla mattina. Non ricordo, io ricordo il venerdì sera con le io vi ricordo che ero ancora ragazzina che il Sabato Santo alle 10 di mattina suonavano le campane. Questo è un significato non che non conosco. Ecco, e questo, quindi abbiamo visto il Natale, ecco, la Pasqua, ecco, e Natale, le feste natalizie, la Pasqua, e San Giovanni, che era un altro così legato così anche a tradizione e cose del genere. Poi, ecco, qui elenca tutta una serie di antidoti contro i furti e così via. Anche qui sono pieni di pregiudizio, cose. L'uomo rubato, uno che è stato derubato, non ha che porre nella lampada che arde continuamente in chiesa un grano di fava, il quale prima sia stato nascosto fra le tovaglie dell'altare al momento della celebrazione della messa. A misura che questo gonfiasi, perché è messo su sta lampada, al ladro pure si gonfia la pelle come a un idropico. Il primo, il grano di fava, scoppia fra pochi giorni e per inevitabile concomitanza deve pure l'altro essere colpito da ugual destino. Quindi anche il ladro scoppia. Quindi, io non so chi mi ha rubato, però, non recupero, però intanto è anche un po' malefica. La vendetta si compie. Ecco, qui dice... Dall'impotenza del giudice terreno di riconoscere i delinquenti si è tratto il mezzo per supplirvi col rendere operativo il voto affidato in un luogo santo alla divinità, alla cui scienza nulla sfugge. Quindi anche lei i giudici riuscivano, o le forze dell'ordine poco riuscivano, esatto, a beccare. Sì, non è cambiato. E allora ecco, si affidavano quasi a un giudizio di Dio, ecco, sì. No? Per quanto l'ultima parte di questa dottrina reclami fede e incuta timore, i ladri però sono spiriti forti che si ridono dei capricci e della credulità dei loro prossimi e continuavano lo stesso a rubare. Però, dice, ecco, non è da trascurare che una ragazza di Treviso, dopo aver rubato 2 orecchini sulla minaccia che si porrebbe nella lampada il decantato grano di fava e sul timore di gonfiarsi e infiarsi, palesò il furto e fu soggetto a un dibattimento presso questa corte di giustizia. Quindi questa aveva rubato un paio di orecchini e dice, ma se fanno questa fattura, io direi, allora è meglio che io prima restituisco quello che avevano. È interessante anche, ecco, di fronte a alcune situazioni di malattia, difatti dice, non è affatto insolito che alcuno da febbre ostinata afflitto leghi con sottile funicella un albero di noce o di fico, quanto più stretto e per 3 volte, e creda a sé di far libero e in sua vece la fatturata pianta rendere soccombente. Quindi lui prendeva, si attorcigliava sta funicella, e che assorbiva tutto il male, sì. Poi la legava stretta alla, 3 volte, anche qui torna il 3, a un albero di noce o di fico. Ecco, interessante, non uno qualsiasi, ma questi noce. Alberi, beh, il fico è quello che viene citato anche nel Vangelo, ecco, no? Sì. E l'albero di noce era tradizione che sotto il noce ci fossero congreghe di streghe, come vedremo dopo. Esatto. Cose, quindi erano i 2 alberi che potevano, anche se morivano, tutto sommato. Sì, ecco. Vabbè. E questo era un po' una... Mentre per le lussazioni, ammaccature nelle membra d'uomini o di animali, non mancano professori che sardeggiano primi nati di donna, i quali sulle parti offese fanno delle croci e segnacoli più intricati dei geroglifici egizi, borbottando in questo mezzo un guazzabuglio sacro e profano di parole devote, di voci barbare, di vocaboli ridicoli e impertinenti. Sì. Quindi, ecco, facevano dei segnacoli su queste lussazioni o cose del genere, e in qualche maniera si pensava che così, che potessero, ecco, sortire la dei, cosa dei ecco, fosse possibile. Come si vede, qui non viene mai citato il medico, perché ecco, sì, c'era la medicina così... a base di erbe. A base di erbe, di cose molto empiriche. Sì, esatto. E poi per situazioni forse un po' più particolari, ecco che c'erano questi rituali questi, esatto, perché hanno tutti gli effetti di un rituale. Sì. E poi ecco, c'è tutto un mondo fatto di folletti, di spiriti, ecco, e di cose di questo tipo. E allora ecco, qui dice che qualcuno, no, ha visto un festino che in certi giorni si fa nei trivi da maghi e streghe. Anche qua è interessante, nei trivi. Nei trivi, esatto. Ma invece mi viene in mente, per un altro, sì, nel blues, nella storia del blues, invece ci sono i quadrivi. Chissà che ci sia qualche attinenza. Ci sarà qualcosa. Ma, anche perché sono antiche civiltà contadine, esatto, anche in quel caso, esatto, evidentemente. Ah, perché qua questo, credo che il trivio richiama per alcuni versi il 3, e quindi è il sacro, sì, esatto, però esatto, in qualche maniera qui infangato, fra virgolette, dal profano, dal satanico, no? Quasi una forma di lotta tra il sacro e il profano, tra il bene e il male. Esatto. E qui ecco, le vedono, hanno visto, dice il monaco, i miei... Però chiaro che sono alcuni folletti trasformarsi in sorci, gatti e giumenti. Sì, sì. E le riuscite dei morti, quindi sì, addirittura morti sì, che salgono dalla tomba, accompagnate da strepiti e frattura di qualche stoviglia. Questi morti uscivano e entravano anche nelle case. E li ho sentiti dire ancora queste cose. L'affetto di cui, ecco, dicono essere preso lo spirito, che appellano, ecco, un altro, Sanguanello Mazzariollo, che si lascia vedere in forma di piccolo ragazzo tutto vestito di rosso. Esatto, un attimo, professore, ci fermiamo e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è una canzone cantata in francese da Charles Trenet. Ecco, Douce France. Bravo. Ecco. Il revient à ma mémoire les souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale diamo la parola. Si parlava appunto del Sanguanello Mazzariollo, ecco, che si lascia vedere, dice sempre Monico, in questa, no, relazione, memoria sulle usi, costumi, credenze popolari, ecco, di Postiomo e delle ville vicine. Si lascia vedere in forma di piccolo ragazzo tutto vestito di rosso, ecco, perché poi, ecco, cosa fa questo Sanguanello? Intreccia i crini dei cavalli, ecco, che si allungano, si accorciano. Dispettoso. Esatto. Però, ecco, secondo le credenze qua, ecco, descritte dal Monico, fabbrica la grandine distruggitrice delle nostre belle raccolte, di tutte le speranze dei miseri coloni. Ecco, e accanto al Mazzariollo o altro ci sono dei maliardi, ecco, degli stregoni o dei diavoli loro confratelli, ecco. È interessante perché poi dice che un'altra usanza, ecco, è quella di l'adustione di un gatto nero, povero gatto, quindi povero veniva gatto, ecco, messo in pentola, che abbia compito 7 anni, e anche qui il 7 sì, ricorre, no, torna, come in una pentola di rame, eseguita questa adustione nel mezzo di un'aperta campagna, per far cosa? Per istrappare al demonio, che era in quel gatto, il segreto di convertire tutti i metalli in oro, e a scoprire e riscavare tesori nascosti. Mamma mia. Ecco, no, c'è il vecchio desiderio, sogno, no, sì, del trasformare, no, tutto in oro. E come qua... remida moderni. Già. Ecco, ancora un'altra interessante, ecco, così, consuetudine, dice: il traversale collocamento di una scopa sulla porta di casa per sapere se la tal donna, col non potervi entrare, o se già entrata, col non potervi più uscire, fosse una strega. Allora, perché le streghe tradizionalmente vanno in giro a cavallo di una scopa. La scopa, quindi, sì, difatti. Se vedeva la scopa, o non entrava, o non usciva, perché ecco, quello per lei lo vedeva come un segno di distinzione e poteva essere identificata come una strega, ecco. Mamma mia, le favole delle streghe di... Sì. Perché ecco, alcune volte succedeva questa: e né minore è l'altro disordine, quel cioè di affibbiare a tale o a tal'altro individuo la taccia di fattucchiere. Urcucan. Né sempre questa infamazione restringersi al concetto e a parole, perché a volte procedevano anche sì, altro che. Se un fanciullo struggesi, cioè si andava in deperimento come al sol neve, benché ciò facilmente addivenir possa per mala nutrizione. Evidentemente. E l'intellettuale, sì, quelli sono i motivi. Sì, esatto. Però ecco, per gli aliti, perché si deperiva, per gli aliti cadaverici dell'aia, c'era l'età maia, certo. O per la fantesca decrepita che tutto il dì suol tenerlo nelle ginocchia e baciarlo. E l'igiene era e nella notte a riposo mari nel proprio letto la promiscuità. La promiscuità, ecco. Ma pur crede la madre, quando vede che suo figlio che la tal donna del vicinato, vecchia e brutta, sono questi due segni principali dell'iscrizione nel ruolo delle streghe, l'abbia fatturato. E dice il monaco: ciò spesso basta perché, furioso al primo incontro, la madre di sto bambino l'assalga e si cominci una terribile zuffa che termina con lo strappare alla medesima dalla graffiata nuca le canute reliquie della sua chioma e a pugna, cioè con dei pugni, cacciarle in bocca all'ultimo dente. Quindi, mamma, quando mia, una vedeva violenza, un figlio che deperiva e sospettava che la vicina... C'era l'untore, ecco, anzi l'untrice, esatto, in questo caso. Succedevano queste risse, ecco, belle e buone, insomma. Sì, sì. Però anche allora c'erano queste violenze, anche... Anzi, erano proprio penso. Perché insomma, si basavano su se... queste superstizioni, insomma, perché sì, ma lì è interessante che poi veniva segnato a dito se uno già era il sospetto che fosse una strega, un fattucchiere, eccetera. Sembrano quasi legato al meridione, esatto, invece sì. È interessante che nel 1812 anche nelle nostre campagne c'erano queste forme di emarginazione e di esclusione. Esatto, qui gli antropologi avevano il loro bel da fare, assolutamente, per scoprire cose interessanti. Le fattucchiere usavano anche i fondi del caffè, vedevano nei fondi del caffè quello che... Sì, lui qui ecco si ferma a queste perché... Per esempio, ecco un'altra cosa, la recisione della legna da fuoco vuol farsi in tempo di vecchia luna e il taglio di quelle da lavoro nel corso della crescente, perché dicono l'affluenza o circolazione dell'umor delle piante fa che le prime riescano più aride, quelle da fuoco, e il tronco metta germogli novelli con più vigore, e che le altre siano quelle che vengono, tagliate, no? Ecco, potate, ecco, per essere incrementate. Mentre le altre siano meno soggette alla corruzione e ai tarli, quindi quelle per l'uso, ecco, dei manici, dei picconi, delle vanghe, delle zappe e così via. Ugualmente i nostri saputi coloni le tamar non vogliono i campi nei tre giorni del plenilunio, né al novilunio pigiar l'uva nel tino, né le donne fare il loro bucato, né permettere che la bollitura del vino tocchi due lunazioni. Se si presti lor fede col trascurarli le avvertenze, il vino sempre rimane torbido, non nasce il grano, i pani diventano flosci e si squarciano al solo toccarli. Quindi c'erano queste niente nei tre giorni, ecco, di plenilunio, né al novilunio, sì, spargere le tame, pigiare, esatto. Niente, perché altrimenti queste erano così negative. Addirittura sì. Dicono che tagliarsi i capelli in luna piena o in crescere di luna crescono di più. Tradizione. Sì, ecco. Lì non so dire se anche ma questo non lo so, sia perché non ci ho mai fatto caso, però c'è questo sì, pregiudizio, c'è questa... Esatto. Ecco, poi ecco qui dice hanno pure una grandissima fiducia nelle predizioni e ai pronostici del lunario, ecco. Ah, sì. E i loro autori riguardano come uomini di vastissimo sapere e di penetrante acume, anzi in quest'anno sono stati altamente scandalizzati nel non vedere nel lunario stampato a Treviso, quindi anche qui ecco, chiamata come essi dicono nelle fasi lunari la pioggia, la neve, il vento, il freddo, come? Dice lunario e non dice se non dice pioverà, se, ecco. Ed è interessante ecco anche questa, tipo questa... Mago Boscariolo, ed è interessante che già nei primi dell'Ottocento si stampava sto lunario, tante volte veniva poi affisso, no, esatto, affisso in casa. Io ricordo anche dei lunari che erano tutti i fogliettini che ogni giorno staccavi un fogliettino. Ho visto anche quelli. Ma mi piaceva tantissimo perché ogni giorno andavi a staccare il tuo fogliettino. E... Ecco, qui poi cosa dice? C'è questa famosa leggenda della madre di San Piero. Ecco, ah, no? Sì. In quanto lui dice non posso dispensarmi dal riferire un grazioso aneddoto ultimamente, dopo aver terminato la memoria, raccontatomi dall'amico parroco di Padernello. Però dice, ecco. Allora, dicono quei popolani, cioè quelli di Padernello, sì. Però ecco il monico dice, ma insomma, che la madre di San Pietro Apostolo è all'inferno. L'amoroso figlio ottenne da Dio in grazia dei suoi meriti e delle sue preghiere di poterla liberare dall'inferno per 3 mesi all'anno. Andò egli in persona a estrarla e l'invitò a seguirlo. Prontamente essa l'obbedì, ma una sua vecchia amica le si attaccò fortemente alle vesti per uscire con essa dall'inferno. La buona madre di San Pietro non volle seco l'amica e tentò con la forza di liberarsi da quella seguace e con malagrazia la discacciò. Questo atto dispiacque fortemente il buon apostolo, che sdegnatosi restrinse l'assenza di sua madre dall'inferno a soli 15 giorni, anziché i 3 mesi previsti. Otto prima e 8 dopo della sua festa che accade ai 29 di giugno. In questo frattempo succedono d'ordinario i più terribili temporali e le più desolatrici tempeste e si vede, dice quello sciocco e superstizioso popolo, la madre di San Pietro alla testa e alla direzione di quei furiosi uragani. Quindi non sarebbe, perché un'altra versione dice che la madre di San Pietro era una peccatrice che per vendicarsi in qualche maniera che il figlio si fosse salvato, invece qui sarebbe un'altra versione, perché dopo ogni paese metteva all'inferno, poverina mamma, all'inferno povera. Comunque ecco. Quando ci sono i temporali dicono la mamma di San Piero. Esatto. Certo che in genere c'è qualche, diciamo, fondamento, non dico di verità, ma qualche aggancio che possa richiamare, sì. Chi lo sa. Sì, sarebbe interessante probabilmente approfondire. Sono delle statistiche remotissime, sì. Che magari abbiano, sì. Come dire, sì. Formato questa credenza. Questa, diciamo. Sì, nata su una, ripetersi di esatto, alcuni... su una base antica, certo. molto come antica. Dicono, per esempio, che per la scienza, se piove il giorno della scienza, per 40 giorni siamo senza, esatto. E beh, io ho... Pure a Candelora, siamo fuori. Sì, beh, è successo che dopo l'ascensione ha piovuto per tanti giorni. Beh, in genere hanno appunto qualcosa che evidentemente ma non, molto è, probabilmente... non si può provare, ma qualche base probabilmente statistica, diciamo, tra certo. Virgolette, potrebbero averla. Sì, insomma, sì. Ecco. Sì, perché queste cose dal niente non credo che siano nate, insomma. Perché... No, come è interessante, sui piedi del Montello c'è un diffuso culto di Santa Eurosia. E anche lì ai confini della chiesetta di Santa Lucia sulla Feltrina, ai confini fra Postioma e Castagnole, ecco, c'è la chiesetta di Santa Lucia, ma accanto, per chi passa sulla Feltrina e vede affrescate, Santa Eurosia, che è la patrona contro la tempesta, i temporali con grandine. Ed è perché, ecco, sulla fascia selva già vera, cioè, effettivamente lì si scatenano dei temporali, esatto, che a volte, ecco, sì, con grandinate violenti. E vicino proprio a Postioma, in quella fascia lì, se grandina, quella è una porzione di territorio che di solito viene battuta forte, fortemente. Allora forse è legato a questa. Sì, perché io sono fatto. Convinta che dal niente non nasce niente, qualcosa. Certo, esattamente. Sì, sarebbe da approfondire. Beh, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che è intitolata Profumo di Ginestre. Profumo di ginestre, profumo di ginestre avevo in te, ed ora sono qui, racchiusa tutta in me, e guardo tanta gente sorridente intorno a me, nella malinconia. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche di questo affascinante racconto con il nostro ospite. Tanto, tanto affascinante. Grazie. Ecco, un ultimo appunto riguarda proprio la lingua, che il Monico, ecco, nella sua relazione scrive, dice, col nostro dialetto, che si avvicina molto al veneziano, siamo intesi però da tutto il regno, perché siamo, ecco, nel Lombardo-Veneto, chiaro. Napoleone è ancora in auge, ma già questa area, ecco, appartiene, sì, ecco, a lui, agli Asburgo, insomma. Le differenze tra gli altri nazionali dialetti non sono di gran rilievo, tranne il friulano. Ecco, il dialetto che lì si parla, che qui si parla, dice, è molto diverso. Sì, è come una lingua proprio. Una lingua. Esatto. È interessante come conclude, no, questa ampia, qui io ho fatto così, una sintesi. Certo. Ecco. Certo. Tutte le cose peraltro sin qui descritte riguardansi possono come gagliofferie degne di riso, no? Perché lui dice, adesso qui diventa serio, no? Come... Ma quello che meritarvi è più dieve la nostra attenzione e l'interesse comune, perché deve fare questa relazione al governo, certo. Ed invocare la provvidenza del saggio e illuminato governo e la salute del benemerito e laborioso lavoratore dei campi. Qual è l'attenzione o su cosa si deve concentrare? Certo. Il suo cibo, la sua bevanda, il suo vestiario, il suo alloggio. Ecco, chiede di fare attenzione a questo, perché ha già tutta evidenza dimostrato l'egregio nostro professor Marzari, che è qua, tra l'altro ha fatto di Treviso, ha fatto un ampio studio, che il maggior nemico della salute dei nostri contadini, quel morbo che gli toglie le forze, lo rende inetto al lavoro e lo conduce immaturamente alla tomba, si parlava di 45 anni, 42 esatto, anni, quella è l'età, sì. È la pellagra. La pellagra dice che da cui è attaccata quasi la metà della popolazione. Tragedia, quindi, ecco, sì. E che nasce dall'uso continuo della del sorgo turco. Della polenta. Cattivo, della polenta. Esatto, che è ammuffito. Esatto, che poi si è capito che non era solo quello, naturalmente. Dice del resto a questo insalubre cibo è condannato il contadino per la maggior parte dell'anno e sicuramente tutto l'inverno, attesa la sua indigenza e miseria. Evidentemente. Vi si unisca a questo la pessima bevanda di vino, inacidito e mamma guasto, mia, sì. E spesso d'acqua corrotta e torbida, il sudiciume del corpo, la biancheria piena di sudore e di rado lavata. Noi diremmo che prima c'era la superstizione, ma l'aria delle loro stanze mai ventilate, aria fetida e pregna di nocive esalazioni che partono dai letamai contigui e dall'acqua stagnante vicine all'abitato. Ecco. Un po' come si i gran calori nelle stalle sino allo sfinimento, il passaggio dal caldo al freddo e dal freddo al caldo, la mancanza o difficoltà di buoni medici e medicine in caso di malattia, o il cattivo ufficio di qualche mediconsolo più nocivo del male stesso. E si concluderà che è assolutamente un miracolo che in tale stato di cose, che non è niente esagerato quello che vi ho detto, possano i nostri contadini vivere e lavorare. Esattamente. Allora ecco, dice, possa questa importante porzione della società meritare gli sguardi del provvido governo e migliorare la sua sorte, che a dir vero è assai miserabile. Sì, è una diagnosi assolutamente perfetta, diciamo, dei mali. È interessante, no? Perché qui viene fuori il prete. Dicevo l'altra volta che prende a cuore, prima fa un'analisi sorniona degli usi, costumi, però, superstizioni. Questo è... Però dice adesso andiamo sulle sodo, cose, al sodo. È un miracolo che riescono a sopravvivere in queste condizioni. Estreme, e quindi, proprio, già che mi chiedi governo una relazione, io ti dico, sta attento. Che cosa dovrebbe essere fatto? Esatto. Ma l'età da vivere era bassa allora? Un'aspettativa di vita molto, sì, molto 40, 50. La media, ecco, che moriva sui 45-42 anni. Ecco, e i bambini che morivano di febbre. I bambini che avevano di febbre, esatto, o cose del genere. C'era un'alta mortalità. Spaventosa. Ma anche i parti, erano sempre a rischio. Esattamente. Quindi, sì, è un po' questa situazione che è interessante perché, come dicevo l'altra volta, lui poi c'era da fare le cosiddette carte a Treviso. Andava lui per i contadini, quindi tra l'altro fu un parroco molto amato. Beh, è interessante perché lui coltivava amicizie importanti come col Canova, ad esempio. Il Canova si fermava più di qualche volta quando era di passaggio in canonica, ecco, con questo Giuseppe Monico. Era di una cultura enorme. Fra le amicizie aveva anche il Paravia, aveva il Trento, che era un grosso, il Giordani, che era il così corrispondente a Leopardi. Però nello stesso tempo era così attento, no, anche alla vita anche dei suoi parrocchiani. Certo. No, perché rischieremmo di avere l'intellettuale che però vive nel suo mondo, invece attento, ecco, indagatore. Un po' come faceva Machiavelli, diciamo, che svestiva i panni reali e curiali e si mescolava. No, qui abbiamo una sintesi proprio fra il buon prete e l'intellettuale. Ecco, esatto. che... Con una sintesi addirittura comunque, unica, penso, perché sì. non sì. frequente, credo assolutamente. Infatti questo è un documento straordinario, perché è molto dettagliato, come dicevo, perché poi fa anche dei riferimenti con agganci culturali a cosa succede presso gli egiziani, presso il Medio Oriente, su queste tradizioni. Un trattato, diciamo, un tomo, una diagnosi proprio perfetta, una sociologia sì. di ante litteram. No, veramente... Comunque parroci come quello penso che ce ne fossero stati, ma forse sì, perché allora il parroco era diverso. Era un punto di riferimento. Sì, diciamo, infatti era una personalità del paese, generalmente. Sì. Il parroco, dicevano il dottore e il farmacista, erano... È interessante anche alcune posizioni che lui prende, come quella ad esempio di smentire la superstizione sulle donne che avevano partorito e in prima persona si coinvolge. Occorreva probabilmente anche un certo, non dico coraggio, ma siamo una oppure certa... sul tener segreto il matrimonio di vedove che poteva essere oggetto di ludibrio e così via. Da un punto di vista dell'ortodossia non era il massimo, però è coraggioso in questo. Non capisco perché appunto una vedova non poteva più risposarsi. Ma erano così, non ha un senso. Consuetudini sì, più che esatto. altro, diciamo. Sono consuetudini che adesso sono proprio capovolte perché per fortuna, insomma, se rimanessero ancora. Esatto. Ecco, hanno regnato per parecchi secoli, praticamente fino alla scomparsa della civiltà contadina. Insomma, ecco, sa, adesso ci sono anche queste rivisitazioni, parlo degli usi costumi. Del pane e vin o di altre anche della rivisitazione dei mestieri, gli antichi mestieri e così via. Ecco, a mio parere è importante non tradire questo, perché a volte rischiano di essere più occasioni di business commerciali, esattamente. Comunque, sì, bisognerebbe seguire proprio lo spirito diciamo, dell'epoca, giustamente. Sì, da fare un po' attenzione, nel senso che un contadino di questa età è un contadino e non è riproponibile Ecco perché personalmente amo enormemente i musei etnografici, ma proprio perché non ci sono persone in carne ed ossa, perché io stesso, così come sono adesso, è impensabile che reincarni una persona del 1800. Certo. Però il racconto, diciamo, è dato. Il racconto è importantissimo. È decisamente importante. Comunque i contadini di adesso sono moderni. Sono passati ad altro, come dire, altro status. Una volta adesso, diciamo, per certi versi sono dei privilegiati. Ecco, quello che qui appare come elemento ricorrente sono proprio i quattro elementi, no? la terra, il fuoco, l'aria, l'acqua, sì. E vediamo come vengono usati nelle varie situazioni e dell'anno e anche personali, con significati atavici, antichi. Cioè, è proprio, come dire, un periodo nel quale si sono riproposti in quei secoli delle appunto antiche abitudini, antichi anche modi di lavorare con l'aratro, eccetera, che poi hanno subito una brusca accelerazione, diciamo, negli anni 50 e 60, e da lì... Ma negli anni 50 ancora negli anni 60 è proprio sparita bruscamente una civiltà che avrebbe meritato, io credo, una... Come dire, almeno da un punto di vista dello studio avrebbe meritato una migliore... Di non sparire così. Di essere gestita come termine anziché essere subita, come abbiamo per fatto. Per fortuna rimangono questi documenti, questi documenti che sono straordinari, perché sono dei testimoni del tempo e rigorosi nella descrizione. E questi documenti che speriamo non vadano, sciupati, anche perché mi pare ci sia tendenza oggi a considerare gli archivi in qualcosa di stantio, mentre in realtà dovrebbe essere cura primaria di perché è il mantenimento della memoria, senza la quale non c'è identità. Ma vedrai che si ritornerà. Ho l'impressione di sì. Speriamo prima che tutto quanto venga spazzato via, diciamo, dalla mancanza di mezzi che è ormai endemica. Ma direi proprio per respirare, qui mi permetto ancora, sfrutto questo microfono. Certo. Per respirare l'aria in cui appunto il monaco ha vissuto e anche un po'. questi affreschi che lui ha promosso, ecco, certo, e commissionato, certo. Beh, aspetto i nostri ascoltatori. Ecco, allora, questa è una cosa... Cioè, ogni quarta domenica del mese, dalle 15.30 alle 19, c'è questa opportunità. Permettiamo di sottolineare questa possibilità che hanno i nostri ascoltatori? I nostri ascoltatori di andare a visitare perché è una visita che è al di fuori della solita diciamo kermesse o cose di questo tipo, certo. E quindi ma anche per coltivarsi un po', per arricchirsi lo spirito, un po', mamma eccetera, mia eccetera. Se no e sono cose che consentono, come dire, di rimettere un pochino i piedi sulla terra, certo, di quello che era un mondo proprio reale, in cui si viveva effettivamente secondo natura. A me dell'antichità piacevano anche queste cavalcate che facevano, adesso vanno in bicicletta, no? Allora andavano a cavallo. Oppure la transumanza. E qui siamo arrivati anche questa sera, diciamo, fine, al traguardo, sì. E naturalmente abbiamo sempre timore di non riuscire a concludere. Ma abbiamo sempre concluso, abbiamo sempre concluso, certo, e con certo. grande soddisfazione, mi pare, i nostri ascoltatori e ascoltatrici che hanno e anche dei nostri ospiti, certo, perché, certo, sì, logicamente, che hanno la pazienza, certo, di convivere, certo, con noi. No, no, grazie a voi. Professore, noi la ringraziamo infinitamente. Grazie. E non so, eventualmente ci possiamo sentire in altre occasioni per un ulteriore approfondimento. Va bene, grazie a voi. Grazie a lei e a risentirci. Allora, Antonio, alla prossima volta, ecco, bravo, addio piacendo. E io, come sempre, dico a tutti ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.